Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di una cantautrice, polistrumentista, direttrice d'orchestra e anche attrice italiana. Finirò per consumare qualche altra sigaretta, stando in piedi sulla porta aperta. Una tazza di caffè per il risveglio e soltanto i nostri nomi per bagaglio. Ho lanciato contro il cielo razzi di segnalazione. È nata a Rocchetta Tanaro nel 1967. Inizia da piccola come violinista e nel coro polifonico della sua parrocchia. Nel 1986 partecipa al Festival di Voci Nuove di Castrocaro vincendolo con Pietra su Pietra. L'anno dopo partecipa nella categoria Giovane al Festival di Sanremo con Notte di Praga. Al Festival torna nel 1988 con un brano scritto per lei da Mango, Non è segreto. Nel 91 pubblica il suo album di debutto con le collaborazioni di Mango e di Eugenio Finardi. Duetta con Roberto Vecchioni, poi con Luca Madonia, quindi collabora con Enrico Ruggeri e Ron. Cura inoltre la colonna sonora del film Le Acrobate di Silvio Soldini. Nel 1999 il secondo album da solista Il Centro dei Pensieri. Nel 2000 porta a Sanremo La Canzone del Perdono nella categoria Giovani. Nel 2001 Lucidamente, per il quale è autrice di tutte le musiche e i testi, oltre a suonare quasi tutti gli strumenti. Nel 2002 dirige l'orchestra del Festival di Sanremo che accompagna Enrico Ruggeri nel brano Primavera Sarajevo, di cui è coautrice. L'anno seguente duetta sempre con Enrico Ruggeri a Sanremo in Nessuno Tocchi Caino. Seguono gli album Andrea, A Fior di Pelle, La Fenice, Elettra e Calliope, Segni e Particolari con Alberto Patrucco. Torna a Sanremo come direttrice d'orchestra nel 2010 per Ruggeri e Nina Zilli, nel 2013 per Andrea Nardinocchi, nel 2014 per Perturbazione e Zibba. Mentre porta avanti un'intensa attività teatrale, nel 2016 pubblica l'album Nessuna paura di vivere. Lei è Andrea Mirò. In realtà è vero, Nessuna paura di vivere. Un po', se vuoi, anche un po' slogan, ma soprattutto vuol dire tante cose. Cioè, la puoi mettere un po'. Va bene per tutte le stagioni, diciamo. Nel senso che nessuna paura di vivere riguarda nessuna paura riguardo ai rapporti sentimentali, ai rapporti con d'amicizia, ai rapporti di lavoro, nella società, nell'approccio con il diverso, con se stessi, anche, no? E è un po' il significato di tutto quanto il materiale che c'è nel disco, alla fine. Il titolo del disco, ma non il primo singolo. A me piace sempre questa cosa che poi uno si immagina che no, le scelte poi sono diverse, sì, in questo. Perché poi le scelte vanno sulla canzone che per prima, ma dipende, ci sono tante strategie, chiamiamo così, tra virgolette. Più che altro Debole di cuore è stato il primo singolo per il semplice motivo che un po' è il genere, canzone tipo manifesto del contenuto del disco. Ed è, parla di chi vuole ancora buttare il cuore oltre l'ostacolo, vuole ancora emozionarsi, vuole ancora prendersi i propri spazi, i propri tempi, vuole decidere la propria vita, si guarda nello specchio anche magari facendo una smorfia, nel senso che non è tutto bello quello che si vede, però semplicemente sei tu o è la tua vita, e alla fine della fiera accettiamo anche un po' le cose come sono. Questo non significa che non valga la pena battagliare o combattere per avere qualcosa di meglio. Non so se odiare o ammirare chi guarda e tace per lo stipendio e la famiglia porta la sua croce. Io non mi perdo nei dettagli che non so spiegare, difendo solo il mio diritto di stare bene. Non mi fido di chi vive solo, non capisco chi è sempre deciso. Sogno delle fate. sono tante storie femminili, anche se di una femminilità particolare, forte, solidale. C'è tanta femminilità bella. Forse sì, è uno dei dischi con più femminilità tra quelli che ho scritto. Io non penso mai quando scrivo a dover, come dire, pormi degli obiettivi riguardo delle tematiche. Non ci penso perché voglio essere libera da schemi, questo in generale. Però evidentemente ho sentito l'urgenza di parlare di più di donne. E quindi spesso le storie parlano di donne o di due donne, oppure di una donna che sta prendendo una decisione importante rispetto alla sua vita di coppia, o una donna che sta facendo il bilancio proprio per la relazione sentimentale, in modo negativo, però parlando attraverso il cibo, che è una canzone che si intitola Sorprese. C'è la storia di un femminicidio e qui parla un uomo, ma in realtà sta raccontando della donna. In generale, oppure c'è una canzone d'amore, prettamente d'amore, cosa che è uno spazio che mi ritaglio poco per volta ogni disco, che ho imparato a ritagliarmi, perché per me parlare d'amore, mettermi a nudo in modo positivo sui sentimenti, è sempre molto difficile. Mi sento sempre molto scoperta e poi ho sempre paura di essere troppo melensa, troppo dolcificata, troppo sorridente. E quindi di essere sempre borderline tra la melassa, ecco. Credo di essere rimasta lì in bilico, forse ce l'ho fatta, e ho scritto una canzone che si intitola Non chiedo di più, che credo e amo in questo disco tra quelle più riuscite. E insomma, ci sono tante storie, ci sono anche tante storie di, non lo so, che riguardano il sociale in modo, si attraversa qualche tema che parla di un vecchio, di un ragazzo, quindi non prettamente di un tema in particolare, però alla fine si parla di bulimia rispetto alla rete, si parla di tutto quello che oggi la richiesta sociale su di noi, dove spesso noi non ci ritroviamo, che sono le maschere che dobbiamo per forza indossare o che magari non vogliamo indossare, porco Giuda. Anche perché poi, avendo dei figli piccoli, immagino che tu queste domande te le faccia guardando anche loro. Sì, parecchio. Perché questa non è più un'epoca storica in cui veder crescere i figli è un po', come posso dire, così tanto naturale, nel senso che si segue tutto dei propri figli. La domanda è sempre quella: ci sono troppo o sono troppo, sono troppo poco presente? Ci sono molte più domande che una volta. La vita si è molto complicata, e soprattutto quella dei più piccoli e degli adolescenti. È difficile oggi avere 15 anni o 18 anni, secondo me, ma è altrettanto difficile averne 8 o 10. Certo. Questo per tanti motivi. Aveva lunghi capelli neri, perfettamente pettinati, una piccola borsetta, dei braccialetti colorati. La vedevo tutti i giorni mentre usciva dal portone, uno stabile a Milano, quello verde, dal terzo piano, mentre camminava a passi svelti come tutti i pomeriggi, con quell'aria d'animale braccato, da cucciolo impaurito. Mi è sembrata più sola del solito in una giornata così bella, e mi sono avvicinato, deciso, e le ho chiesto... Voglio tornare al femminicidio, a Reo Confesso, perché sembra che le notizie non rendano purtroppo sempre attuali le canzoni. Sì, ahimè. E infatti mica per niente. Io ho scritto questa canzone, peraltro è una canzone che è nata, è una canzone quasi del tutto parlata, ed è nata in pochissimo tempo. Avevo in mente che cosa volevo dire, la storia, avevo questo film in testa, e l'ho scritta alle 8 del mattino, dalle 8 alle 8 e 20 più o meno, mi sono cronometrata. Nel pomeriggio l'ho cantata, perché avevamo già un fondo, una base su cui poter cantare, e quindi quella è la prima versione, peraltro letta, cioè col microfono al banco, registrata al volo, letta col foglio davanti. E è stata così bella la versione che i ragazzi in studio hanno applaudito al volo, che abbiamo tagliato gli applausi Mi viene da ridere adesso se ci penso. E quando l'abbiamo ricantata, la versione che abbiamo tenuto alla fine, nonostante fosse anche bella quella ricantata, non aveva quell'anima lì. Abbiamo tenuto esattamente quella lì del provino. E ci sono più momenti in questo disco che sono stati tenuti così come sono stati registrati, cioè live al buono, chiamiamola buona la prima, ecco. Spesso si passa tutto il tempo delle registrazioni di un disco a cercare quello che è stato fatto prima della registrazione, diciamo, finale. Ed è una dinamica molto strana, però è vero, è così. Tu cerchi continuamente quell'energia, quella vibrazione particolare che è difficile da rendere quando la devi recuperare e rifare, diciamo, con la testa, perché quella pancia lì, tra virgolette, è difficile da recuperare proprio nel momento in cui hai la registrazione, hai play rec acceso. Che però succede solo ai musicisti veri, perché quelli che invece devono costruire tutto non possono permetterselo. Beh, questo non lo so. No, però... purtroppo, sai, sì. se devono confezionare tutto è altro che la prima. Persa lungo la statale, piove da una vita. Quanto ancora può far male trattenere il pianto ad ogni costo, che tutto dentro sale. E la luna è chiara da vicino. Allora, Piove da una vita è una storia di amicizia. Di un'amicizia, non so quanto è autobiografica o quanto è immaginaria, però... Nella mia testa è una sorella, io ne ho due di sorelle. Ci si ritrova da grandi a pensare alla vita che si immaginava da bambini. Sì, sì. Lo so, non era come lo immaginavamo da bambine. Io a volte parlo con me stessa quando ero bambina, quando ero ragazzina, le chiedo se è orgogliosa del poco che ho fatto. Tu parli mai con te stessa? Sì, sì, lo faccio, e credo che sia... questa canzone parla proprio di questo. Credo che siamo tutta la nostra memoria, quindi tutto il nostro bagaglio. Lo siamo nel bene e nel male, se mai male c'è, insomma. E siamo l'addition, c'è cioè una canzone francese che parla proprio di questo. Siamo tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco perché è importante la memoria. Hai citato la memoria. Lo sai che l'anno prossimo devi per forza tornare a Sanremo perché sono 30 anni? Orca vacca. Sai, hai che fatto il conto? No, non ci ho pensato in questi termini. Però adesso che me lo dici, forse perché volevo evitare a me stessa di ricordarmi. Eri una bambina. E lo ero proprio, nel senso che era quello l'approccio... Forse sarebbe una figata, si può dire figata, sì, si può dire alla grande. Sì, sarebbe bello, mi piacerebbe molto. Ed è tutto per questo appuntamento con Voci in Scena. Con noi c'era Andrea Mirò. Ancora un saluto da Marta Cagnola.